l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti in diretta a Radio 24, il nostro appuntamento settimanale per raccontarvi l'Europa, l'Europa che noi narriamo a Radio 24 quotidianamente nella sua attualità politica, economica. Il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, altre sfaccettature. Un programma in collaborazione con Euronet Plus, network di radio europee, tante voci diverse per un percorso comune. Euronetplus.eu, il sito, il portale che vi consiglio di visitare perché tanti aggiornamenti, tanti approfondimenti. Ci trovate anche sulle nostre piazze virtuali, le coordinate chiocciola Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia sia su Twitter che su Facebook, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi tante novità, perché è stata una settimana importante per quel filone che riguarda le opportunità proposte dall'Europa, però vogliamo partire dall'Europa che si è mobilitata, dall'Europa che non solo parla, non solo promette, ma prende anche decisioni e soprattutto si sporca le mani. Lo facciamo partendo dalla Sardegna, dalla tragedia che ha colpito la nostra regione in questi giorni, e lo facciamo con la cosa più semplice, più facile, più vera, che è quella del volontariato, che è quella di giovani che decidono di sporcarsi le mani. Loro sono alcuni giovani che stanno facendo il servizio di volontariato europeo a Cagliari presso l'associazione TGM 2000 e in queste ore, in questi minuti stanno raggiungendo Olbia appunto per cercare di portare un aiuto concreto. Con noi c'è Hichem Benaissa. Ciao Hichem. Ciao. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti. Tu di dove sei e cosa stai facendo in Sardegna in questi mesi? Allora, sono francese da Lione e sono qui per fare il mio SVES, il volontario europeo, come tu hai detto. Sì. E il mio lavoro è di fare la promozione di tutti i dispositivi sulla mobilità europea. Ok, quindi... E anche adesso di fare la promozione sul nuovo programma Erasmus Plus. Uh-huh. Che approvato 2 giorni fa. Infatti, il nuovo programma Erasmus Plus, di cui parleremo poi nel corso della puntata. In questi mesi sei a Cagliari, se non erro, se non sbaglio, sì, giusto? Sì, sì. Ecco, e in questo Cagliari. In queste ore avete scelto invece di spostarvi ad Olbia. Sì, sì, sì. Adesso sono a Olbia per la giornata per aiutare la gente con un gruppo di 10 altri volontari, però siamo 100 volontari italiani, 10 il resto dei TDM della mia associazione. Mm-hmm. Ecco, e da straniero che sta vivendo in questi mesi in Sardegna, come hai vissuto queste giornate? Queste giornate, sì. Prima del ciclone tutto era buono. Mm-hmm. Andiamo a dire così, che è una isola bella, che la gente è perfetta, che a tutta la gente si piace parlare la lingua, però adesso siamo in modo di solidarietà e per aiutare la gente qui, però è un po' diverso. Mm-hmm. E oggi avete viaggiato, credo, nella notte, comunque siete arrivati da poco ad Olbia, siete già arrivati? Siamo arrivati adesso, da 30 minuti fa, e abbiamo viaggiato dalle 4 di mattina. La prima cosa che hai visto, che ti ha colpito, proprio in diretta, cosa ci puoi raccontare? Sì, le facce della gente. Mm-hmm. Facce della gente che triste, che orribile di vedere la gente così su una isola che è bellissima, che normalmente la vita è bella, che è qui più, adesso è più di, forse che è più di brutta la fassa, che è più dura. Certo. Okay. E sai già quello che andrete a fare oggi? Dove normalmente dobbiamo aiutare la protezione civile. Sì. Però c'è un problema di assicurazione per ragazzi, per la maggiorità dei ragazzi, però andiamo a vedere, siamo aperti a fare tutti. Ok, insomma, credo che questo sia, sia lo spirito migliore dello spirito anche che sta accompagnando i sardi in queste ore. Tanta disperazione, ma non c'è la rassegnazione, c'è la determinazione a uscire da questo momento. E anche finita l'emergenza, anche di correggere i tanti errori che sono stati fatti. Hichem, grazie davvero a te, grazie agli altri volontari che con te hanno raggiunto Olbia e siete un po', insomma, i testimoni veri dei tanti ragazzi e delle tante ragazze che in queste ore sono scese in strada e stanno dando una mano. Ciao e buon lavoro. Grazie tanti ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Giovani giornalisti, riscrivete l'Europa. Siete stanchi di leggere i soliti articoli sulla crisi dell'euro? Scrivetene uno voi, in modo diverso, coinvolgente dal punto di vista di più paesi, e vincerete 500 euro. È il premio creato dal magazine online vincitore del Charlemagne Youth Prize Europe and Me, che oltre al riconoscimento in denaro, prevede la pubblicazione online e un invito a un workshop di giornalismo a Berlino o Amburgo. L'articolo può essere su qualunque argomento e deve essere tra le 1500 e le 2000 parole, scritte da un giovane con meno di 30 anni, che sia cittadino dell'Unione e non professionalmente impiegato come giornalista. Per farvi un'idea e per conoscere tutto il regolamento, andate sul sito della rivista europeandme.eu/award. Ma affrettatevi, c'è tempo fino alla mezzanotte del 25 novembre. Let me say that this is great news. The overwhelming majority of the parliament voted in favor of Creative Europe, and this is excellent news for the film industry, for the European culture, and for the millions of people like us who love culture. So I would like to thank the European Parliament for the great support and also for the cooperation throughout the process, and especially Silvia Costa for her great work. I would also like to thank the cultural and creative sector because they have been also very important. Si parla di Europa creativa perché è stato approvato dal Parlamento il programma che stabilisce misure, finanziamenti e cultura, credito audiovisivo per il settennio 2014-2020. È una delle buone notizie della settimana europea. L'altra buona notizia invece riguarda l'Erasmus, perché anche lì è stato stanziato il nuovo programma, saranno 14,7 miliardi di euro, ma con tante novità questo Erasmus Plus o Plus, dipende da chi lo pronuncia. Andiamo a capire nel dettaglio perché è una importante novità e perché la prospettiva che si apre è una prospettiva di largo respiro. Lo facciamo con Chiara Gariazzo, direttore per la gioventù e lo sport della Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea. Buongiorno Gariazzo, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Allora, tanti soldi e tante novità con il nuovo Erasmus. Sì, effettivamente, tanti soldi, e dovrei sottolineare che questo è il programma europeo che beneficia del più importante incremento in termini di bilancio, quindi un 40% in più, come riconoscimento, penso, da parte dei ministri e delle istituzioni europee dell'importanza di dare alle possibilità agli studenti e ai giovani di formarsi meglio e anche agli stati stessi di modernizzare e di adattare il loro sistema di istruzione e di insegnamento a quelle che sono le realtà attuali del mondo del lavoro e del mercato. Mm-hmm. Ecco, il nuovo Erasmus di fatto sostituisce il vecchio programma e accorpa quelli che erano gli altri programmi di mobilità e non solo, allarga proprio il proprio campo d'azione. Sì, effettivamente, quindi il nuovo programma, questo è un elemento che semplificherà le cose per quelli che vogliono parteciparvi, quindi ci sarà un solo programma per gli studenti universitari o dell'affermazione professionale che volessero andare a formarsi in altri paesi europei, per gli stessi operatori del mondo dell'insegnamento e della formazione professionale, ma anche del volontariato, e per gli scambi di giovani, gli operatori animatori del mondo giovanile, per andarsi a formare. Poi anche però la mobilità per quanto riguarda i formatori e dei partenariati tra le scuole, tra, per l'insegnamento degli adulti e anche tra il mondo del, dell'insegnamento e il mondo delle imprese, per appunto favorire una massima partecipazione non solo dei giovani ma di tutti i cittadini che volessero formarsi. Poi c'è anche un elemento nuovo che è quello dello sport, che per la prima volta un programma europeo comporta dei finanziamenti a lungo termine, quindi su 7 anni, per dei progetti che favoriscano appunto la collaborazione tra associazioni, organismi, federazioni sportive, per dei progetti e anche degli eventi speciali non profit sportivi a livello europeo. Ecco, quindi questa è una novità importante. Altra novità è questo prestito d'onore per i laureati in mobilità. Di cosa si tratta? Allora, si tratta praticamente per quegli studenti che avessero avuto difficoltà nel passato per trovare dei prestiti, per andare a studiare, a formarsi all'estero, parliamo dei master. Quindi per fare un master in un'università di un altro paese, l'Unione Europea garantirà tramite la Banca Europea degli Investimenti questi prestiti. Quindi con le banche, gli istituti di credito specializzati per il credito agli studenti che volessero partecipare, saranno garantiti quindi dei prestiti a tasso ridotto, e quindi che appunto l'Unione Europea garantirà, che gli studenti stessi potranno rimborsare solo dopo 2 anni di aver terminato, quindi dopo che avrebbero trovato il modo di rimborsare, e quindi permetterà a una maggiore partecipazione, a un numero più vasto di studenti, quelli che forse vengono da condizioni socio-economiche meno avvantaggiate di altri, per poter andare a completare quindi un master in un altro paese europeo. Di fatto adesso è stato approvato il regolamento, quali saranno le prossime fasi? Nel senso, tutto questo poi come si concretizza, soprattutto i giovani che fossero interessati a partecipare a nuovi progetti, dove potranno informarsi? Allora, innanzitutto chiaramente il punto di riferimento è il sito web dell'Unione Europea, quindi il sito Europa. Okay. C'è una pagina particolare già pronta per Erasmus Plus, quindi ceuropaeu.erasmus+, sì. E anche facilmente si trova anche facilmente con i motori di ricerca, quindi lì si troveranno tutte le informazioni. I primi bandi, anche se adesso il programma dovrà essere adottato formalmente ancora dal Consiglio dei Ministri, ma già i primi bandi sono previsti per metà dicembre. E da metà dicembre in poi tutte le informazioni anche dettagliate su come partecipare si possono trovare sul sito, e praticamente le persone che vorranno partecipare, quindi parliamo di studenti ma non solo, formazione professionale, giovani che vogliono fare volontariato, che vogliono fare scambi, professori e altro, e organismi sportivi, troveranno quindi, avranno la possibilità di partecipare con delle scadenze abbastanza lunghe. Quindi si lanciano i primi bandi a metà dicembre e la prima scadenza è per metà marzo. Mm-hmm. Quindi per le università e ovviamente gli istituti di insegnamento ci sarà un bando all'anno, una scadenza all'anno, normalmente a metà marzo, perché ovviamente quelle si tratta di progetti che vanno su un anno accademico. Invece per i progetti, per esempio, di scambi giovanili, di volontariato, quelli ci saranno 3 scadenze all'anno, quindi ci saranno più possibilità ancora di iscriversi e di partecipare. Vorrei anche aggiungere che poi ogni Stato membro avrà un'agenzia nazionale che è incaricata di gestire proprio il programma a livello nazionale, e anche incaricata di dare tutta l'informazione più pertinente alla situazione proprio del paese. Sì. A chi si rivolga a lei. Ovviamente adesso ancora, siccome il programma non è stato ancora proprio formalmente adottato, le agenzie nazionali non abbiamo ancora proprio i recapiti di tutte per gli Stati membri, ma queste verranno sul sito certamente. Seguiremo. Un'ultima domanda da detta ai lavori, Chiara, siete contenti? noi siamo molto contenti, okay, da un punto di vista anche semplicemente generale, il fatto di aver visto che questo programma è l'unico per il quale sono stati stanziati dei finanziamenti in aumento, mentre invece la maggior parte degli altri programmi anche europei sono piuttosto al ribasso, è veramente un punto molto importante che sottolinea l'importanza che si dà, anche perché ovviamente quando uno vede 6 milioni di giovani attualmente senza lavoro, però 2 milioni di posti di lavoro in Europa che non vengono riempiti per mancanza delle competenze necessarie, questo ovviamente ha segnato veramente l'importanza che bisogna dare a questi programmi. Un grazie a Chiara Gariasso, direttore per la gioventù e lo sport della Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea. Buon lavoro e buona giornata, Chiara. Grazie a voi, anche a voi. Arrivederci. Europostit. Euractiv Jobs per lavorare in Europa. Euractiv, portale online che raccoglie informazioni e notizie su attualità e le tematiche di interesse per l'Unione, ha anche un sito dedicato completamente agli annunci di lavoro nell'area delle istituzioni, soprattutto quelle europee. Sul sito si trovano molte opportunità, dallo stage alle offerte per i manager, dal ramo della comunicazione a quello commerciale, fino agli uffici legali. Il sito ha anche un pratico sistema di ricerca per area, regione e tipo di esperienza richiesta. Siete in cerca di lavoro in Europa? Allora andate su jobs.euractiv.com oppure iscrivetevi alla sua pagina Facebook, facebook.com/jobseuractiv. E vabbè, siamo un po' didascalici, si parla di Svezia e bambini e subito ovviamente si pensa a Pippi Calzelunghe. È una storia, un esempio per raccontarvi ancora una volta come e quanto l'Erasmus in tutte le sue diramazioni possa cambiare la vita. La storia è quella di Giorgio Mezzanotti, 25enne, educatore per bambini a Stoccolma, che è qua con noi. Ciao Giorgio. Salve, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, oggi si parla di Erasmus Plus, il nuovo programma. La tua storia parte da lì, parte dall'Erasmus. Ci vuoi fare una breve sintesi? Sì, infatti. Io sono arrivato in Svezia lo scorso febbraio per un tirocinio tramite l'Erasmus Placement e qui ho iniziato a lavorare in una scuola e mentre ero qui mi hanno detto: guarda Giorgio, rimani perché il lavoro c'è, puoi iniziare come supplente e poi si libererà sicuramente un posto per lavorare a tempo indeterminato. Uh-huh. E infatti adesso ho il mio contratto e sono qui praticamente contentissimo di aver fatto prima un'esperienza con l'Erasmus Placement e poi adesso di aver trovato la mia strada qui. Tu sei di dove originario? Caserta. Uh-huh. E sei laureato in cosa? Io sono laureato in inglese e svedese. Ok, quindi non avevi fatto comunque scienze della formazione o comunque studi? No. Prettamente legati all'educazione. E come ti sei trovato? Dimmi. Qui c'è una carenza di insegnanti, quindi loro cercano continuamente insegnanti. È una cosa che mi ha colpito tantissimo considerando la situazione in Italia dell'insegnamento, quindi c'è una situazione completamente opposta, si investe tanto nell'istruzione, si investe tanto nelle scuole, non ci sono classi super affollate, ma anzi preferiscono avere più insegnanti che allievi quasi. Certo, ascolta, tra l'altro questa è stata la settimana, appunto c'era la giornata dei diritti per l'infanzia, il 20 novembre, stai notando molte differenze tra quello che è il percorso formativo, il percorso educativo in Svezia e le cose che hai toccato con mano, non da tecnico ovviamente, non da professionista, però sicuramente da persona che per anni ha vissuto in Italia, ci sono delle differenze che sostanziali che subito hai colto o hai notato? Sì, qui c'è un impatto sicuramente molto più pratico, cioè, ci sono meno nozioni e più pratica, più tecnica, quindi si dà molta importanza alla crescita individuale sia dei bambini che degli studenti più grandi, quindi si passa meno tempo magari a studiare la teoria, ma si applica direttamente tutto che si studia, quindi i laboratori sono sempre molto forniti, molto numerosi, c'è la possibilità di toccare con mano tutto ciò che si fa, tutto ciò che si studia. Invece in Italia avevo sempre l'impressione, anche all'università, che si studiasse molto, però poi non c'è questa possibilità di toccare con mano, di provare, sperimentare ciò che si è appreso. È una professione che faresti anche in Italia? Sì, Sì, perché no? Io mi sto trovando benissimo qui, ho scoperto di amare i bambini, mi trovo molto bene. Okay. Quindi non escludo di prendere una seconda laurea in scienze della formazione, scienze dell'educazione qui in Svezia. Grazie per la tua testimonianza. L'intervista racconto della storia di Giorgio, se volete leggerla anche sul sito www.iotornose.it. Ciao Giorgio, grazie e buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a te. Ciao, ciao. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Vi ricordo ancora le coordinate, Euronet Plus R24 oppure Federico Taddia, ci trovate sia su Facebook che su Twitter, radio24.it, il nostro sito da dove poter riascoltare la puntata e trovare tutte le indicazioni sui nostri Europost, le indicazioni, le dritte che cerchiamo di darvi. Ancora euronetplus.eu invece è il sito del nostro network a cui apparteniamo con tante altre radio europee. Insomma, tanti modi per trovarci, tanti modi per seguirci, tanti modi per conoscere quelle che sono le opportunità che l'Europa propone, che è un po' il filo del nostro programma. Abbiamo parlato prima di Erasmus Plus, adesso invece un altro programma importantissimo approvato questa settimana, programma che abbiamo conosciuto perché nel corso di questi mesi, durante la stesura, ogni tanto abbiamo avuto qualche aggiornamento. Finalmente è arrivato l'ok, finalmente è stata stanziata una cifra importante, finalmente la cultura torna al centro dell'Europa. Con noi c'è l'onorevole Silvia Costa, relatrice del programma Europa Creativa. Buongiorno Silvia, ben ritrovata. Buongiorno, grazie, ben trovato. C'è soddisfazione? Beh, molta soddisfazione perché è stato un lavoro di quasi due mesi, di quasi 18 mesi, e soprattutto perché molte delle priorità che il Parlamento ha chiesto di inserire in Europa Creativa sono state poi accolte, e soprattutto perché c'è stata una larghissima maggioranza di votazione in plenaria l'altro giorno a Strasburgo, e anche se siamo riusciti a ridurre naturalmente un po' il taglio del Consiglio dei Ministri, però un taglio c'è stato al budget originario, ma siamo sempre a 1,4 miliardi, quindi 9% in più del settennio precedente. Quali sono gli ambiti che troveranno un po' d'ossigeno nel prossimo settennio? Sono importanti per quello che rappresentano ormai in Europa, perché ci saranno all'interno di un unico programma due subprogrammi, uno su cultura e creatività e l'altro su media, quindi audiovisivi, e sappiamo quanto ci siamo battuti perché il brand media non fosse perso, insieme alla sua autonomia di budget come per cultura e agli obiettivi specifici. Si tratta in sostanza di settori che, secondo il libro verde della Commissione del 2011, riguardano circa 1 milione di imprese, soprattutto piccole, medie e qualche volta micro in Europa, 6 milioni, fra i 6 e 7 milioni di addetti e circa il 7% del PIL europeo. Quindi un importantissimo comparto che viene oggi sfidato dalla frammentazione del mercato, dalla digitalizzazione che investe tutti i settori e dal difficile accesso di queste imprese al credito. Per cui è importante, come risposta a queste tre sfide, aver inserito tre grandi questioni. La prima è un settore transettoriale, uno trend transettoriale che in qualche modo prevede anche una diversa forma di sostegno finanziario, accanto a quelli che saranno il sostegno ai progetti che saranno presentati ai bandi della Unione Europea, della Commissione Europea. Ci sarà anche un fondo di garanzia europeo che entrerà in vigore dal 2015, che assisterà quelle istituzioni finanziarie nazionali, selezionate con dei bandi che saranno pubblicati dall'Unione Europea, che daranno prestiti mirati, con portfolio mirati, alla realtà di queste piccole e medie imprese, della cultura, della creatività e dell'audiovisivo. Questa è una buona notizia per il settore, insieme al fatto che saranno sostenuti soprattutto progetti che saranno finalizzati nell'ambito culturale alla internazionalizzazione delle carriere degli operatori, degli artisti, quindi la loro mobilità, circolazione delle opere, traduzione delle opere letterarie nelle varie lingue, la possibilità anche di creare network e piattaforme anche digitali che potranno servire per aumentare e migliorare l'accesso del pubblico alla cultura. E per l'audiovisivo gli operatori conoscono abbastanza già bene la struttura di media, che sarà però innovata con novità interessanti e che però riguarda lo sviluppo, la distribuzione, le sale, la digitalizzazione, cioè le cinetech, le videoteche, la possibilità di vendita all'estero, e molto importante è il fatto che questo nuovo programma nasce con una forte caratura internazionale, cioè non parteciperanno soltanto gli Stati membri, ma i paesi dell'area del libero scambio, la Svizzera, i paesi candidati e i paesi del, diciamo, del vicinato, quindi Mediterraneo, Balcani. Insomma, ponti importanti anche a fianco dell'Europa. E usciranno nei prossimi mesi ovviamente i bandi, continueremo a seguire a metà la cosa. Dicembre. Un altro aspetto importante con cui volevo chiudere è anche questa voglia di educare il pubblico, perché bisogna fare cultura, ma bisogna anche abituare il pubblico, riabituare forse il pubblico a queste proposte, vero? È assolutamente accentrato il tema nuovo. Guardi, l'Eurobarometro nell'ultima sua esame, la seconda analisi fatta sui, diciamo, consumi e partecipazione culturale è abbastanza frustrante, soprattutto per i paesi del sud Europa. Sì. Paradossalmente quelli che hanno più patrimonio hanno meno presenza sia attiva che come spettatori alla cultura. Questo ci deve assolutamente stimolare a capire che bisogna lavorare sì sul miglioramento e circolazione dell'offerta, ma anche sull'innalzamento della domanda e su trovare nuove modalità, anche attraverso i nuovi linguaggi, il digitale, io direi anche i social network, eccetera, per costruire una risposta adeguata e incrociare l'interesse di pubblici nuovi. In particolare penso ai giovani e ai bambini. Assolutamente. Grazie davvero per averci illustrato questo importante programma. Ci ritroveremo poi per entrare Grazie anche nel pratico. Grazie a voi per questa attenzione davvero all'altra Europa. Grazie davvero. Buona cultura, grazie. Proprio ieri e oggi a Bologna si sta tenendo un convegno, i portici di Bologna nel contesto europeo. Il convegno aderisce alla settimana UNESCO di educazione allo sviluppo sostenibile, inserito nel programma nazionale delle iniziative DES 2013 a Bologna, perché si stanno proponendo i portici appunto per essere elevati a patrimonio UNESCO, però ci sono importanti riflessioni anche di quanto il portico sia funzionale a creare cittadinanza e quanto sia funzionale a creare anche una cittadinanza europea. Di tutto questo ne parliamo con Donatella Calabi, che ha tenuto una sessione proprio intitolata I portici, strumento di regolarizzazione di abbellimento della città in Italia e in Europa. È prorettore vicario e professore di storia della città all'Università IUAV di Venezia. Buongiorno professoressa, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. So che l'abbiamo disturbata e le abbiamo chiesto di uscire un attimo dal convegno. Allora, si può parlare di Europa e portici? C'è un link diretto, si può studiare l'Europa anche da sotto i portici? Sì, assolutamente. Certamente Bologna è il caso più eclatante di città con portici, ma esistono esempi certamente in tutta Italia, e forse l'Italia in qualche modo ha fatto da paese trainante, ma esistono portici in tutte le città, in molte città europee, dal Medioevo a in grande misura nel Rinascimento e nel lungo Rinascimento fino al XVII secolo. Abbiamo degli esempi importanti che vanno dalla Dalmazia, con il caso di Dubrovnik nel Medioevo, naturalmente le Bastide, che sono uno degli esempi più importanti di piazze di mercato, che contengono delle piazze di mercato porticate di grandissimo impatto, sì, a tutte le piazze italiane del Rinascimento, le più note, quelle che hanno fatto da modello alla storia dell'architettura dal punto di vista della regolarizzazione dell'abbellimento, pensiamo a Piazza dell'Annunziata, Firenze, pensiamo a Vigevano, a tutte le molte delle piazze e delle lunghe strade porticate dell'Italia padana, ma questo tipo edilizio sicuramente caratterizza anche molte città europee. Parigi, da questo punto di vista, probabilmente è uno dei casi più eclatanti. Nel XVII secolo la Place des Vosges, piazza quadrata, bellissima tra l'altro, esatto, è bellissima, con non uniforme, perché simmetrica, ma non uniforme, perché ha i due padiglioni del re e della regina che si guardano, è uno degli esempi importanti, ma in qualche modo che echeggia la Plaza Mayor di Madrid. Non si sa bene neanche storiograficamente chi viene prima, sono grosso modo contemporanee, e sappiamo che a Madrid si guardava alle opere di Enrico IV come viceversa, quindi due esempi appunto di piazze europee. Esatto, interamente porticate. Portici ed Europa, ne stiamo parlando ancora con Donatella Calabi, professoressa allo UAV di Venezia. Professoressa, ci ha fatto un po' di esempi molto belli, molto significativi, appunto di portici in città europee. Al di là del valore architettonico, qual è il valore sociale che il portico ha e che il portico ha avuto? Io credo che i portici siano davvero una delle strutture di maggior capacità di durare nel tempo, di lunga durata. Una delle questioni importanti è quella giuridica, che tra l'altro è stata ampiamente discussa nel convegno. Non è un caso che i portici siano sempre presenti negli atti notarili. In realtà i portici in qualche modo definiscono i rapporti fra pubblico e privato. Con questo definiscono anche di fatto una sorta di concetto di cittadinanza di cui tanto si parla quest'anno, certo. Perché codificano l'uso pubblico di un suolo privato e da questo punto di vista definiscono anche i compiti, il coinvolgimento dei privati nei confronti di uno spazio d'uso collettivo che è destinato al riparo, è destinato alla percorribilità pedonale, ma la cui manutenzione, pulizia, anche sicurezza persino contro i rischi sismici è demandata anche ai privati. Da questo punto di vista il coinvolgimento della cittadinanza nei confronti della manutenzione e della salvaguardia dei portici è assolutamente fondamentale ed è con questo spirito tra l'altro che Bologna sta presentando questa proposta di candidatura per l'ingresso dei portici nel patrimonio dell'umanità. Insomma. È importante, per esempio, nel convegno si è mostrato come attraverso una piattaforma web sui portici, sulla loro storia, sulle loro immagini, sulle descrizioni di viaggiatori, sia possibile mettere a disposizione di tutti, intendo un pubblico largo, non solo gli esperti, ma i cittadini, i turisti, i bambini, un patrimonio di conoscenze che è importante condividere. Quindi da questo punto di vista l'aspetto sociale e l'aspetto condivisione pubblica, collettiva, è assolutamente fondamentale. Grazie davvero. Tutte le informazioni sul convegno www.comune.bologna.it. Grazie professoressa e buon lavoro. Molte grazie. Arrivederci. Buon lavoro anche a voi. Hola, niño. Sí. Se te cayó un papel. Quello che state ascoltando è un video spagnolo intitolato Se fossi una donna, una sorta di esperimento fatto in Spagna per parlare di violenza alle donne. E lunedì 25 sarà questa giornata nazionale contro la violenza. E scrivere oltre il silenzio è un progetto di cui abbiamo parlato all'altra Europa, ma ci torniamo molto volentieri. Un progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Daphne 3. Organizzato e coordinato dalla Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, un progetto che mette al centro l'autobiografia per promuovere competenze autobiografiche in aiuto delle donne che hanno subito violenza. Con noi uno dei coordinatori, uno degli ideatori, diamo il benvenuto a Massimo Michele Greco. Ciao Massimo, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Tra l'altro, e a tutte. Sei appena tornato dalla Grecia, vero, dove state continuando questo percorso di formazione europea? Sì, sono stati 3 giorni molto intensi, interessanti, sia perché abbiamo visto un po' dal vivo la situazione in Grecia, che come potete pensare insomma è parecchio preoccupante, e anche perché abbiamo potuto avere un riscontro molto positivo da parte delle operatrici dei centri antiviolenza che hanno seguito il nostro percorso formativo avviato a luglio e che con questo workshop che abbiamo fatto con loro di 2 giorni praticamente abbiamo un po' messo a punto le metodologie, le tecniche, i modelli, abbiamo potuto rispondere ad alcune domande molto pratiche. La cosa interessante è che nel loro caso loro stanno applicando il modello in un contesto quasi clinico proprio da counselor, per cui stanno declinando un po' la metodologia, che poi in effetti è una metodologia educativa, non terapeutica, però in un contesto terapeutico con ottimi risultati e buoni riscontri. Ma perché comunque la crisi ha amplificato, ha aumentato i casi di violenza? Diciamo che ne ha peggiorato i fattori di rischio. Consideriamo che ovviamente se noi mettiamo al centro dell'attenzione chi è che fa violenza, non tanto le vittime, ma chi è che la, insomma, la realizza, cioè ovvero la parte maschile, ci rendiamo conto che alcuni fattori di rischio che può creare una crisi economica, dalla mancanza, per esempio partendo dalla mancanza semplicemente di lavoro, dal tasso di disoccupazione che in Grecia praticamente è il doppio dell'Italia, e oltretutto per quanto riguarda la parte femminile, la parte più giovane, arriva delle cifre che vanno oltre il 50% della popolazione femminile giovane. Questo vuol dire che da una parte abbiamo degli uomini, anche semplicemente per come sociologia un po' così facile, frustrati, senza risorse, che spesso possono ricorrere a comportamenti quali l'alcolismo, certo, l'abuso di sostanze, e quindi peggiorare i fattori di rischio. Poi in un'identità maschile che è quella mediterranea, per la quale essere in casa un po' quelli che portano il pane, quelli che insomma fanno da sostentamento, è un valore molto importante. Quando va in crisi quel valore, molto spesso il maschio va in crisi forte, e come anche alcune ricerche molto attente hanno dimostrato, c'è una relazione fra crisi, come dire, del ruolo maschile, di come si vive soprattutto questa crisi, e violenza. Violenza. Massimo, abbiamo veramente 30 secondi, però sì, credo che sia il tempo giusto e necessario per lanciare questa iniziativa che è in programma per domani. Cosa avete ideato? Una sorta di flash mob letterario? Sì, in pratica abbiamo fatto un invito un po' al pubblico, a chi è interessato, a raccontare qualcosa della propria vita personale o anche qualcosa di cui si è venuto a conoscenza, che è rimasto impresso alle persone, per quanto che riguardi un po' la violenza, ma anche intesa in senso più largo, non per forza quella scabrosa o quella che crea lesioni fisiche palpabili, ma quella che molte donne possono vivere nelle situazioni di relazione. Infatti il titolo che abbiamo dato un po' alla sollecitazione di scrittura è quella proprio di raccontare quali sono i confini di questo amore, okay, no? Cioè abbiamo i confini dell'amore da domani dalle 18:30 sul blog www.lua.it, lì tutte le informazioni per questo flash mob. Grazie davvero Massimo e complimenti per questa iniziativa che è assolutamente importante. Grazie a voi per essere stati in nostro ascolto. A sabato prossimo, ciao. Euronet Plus.